Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Anche la mosca sembrò sensibile a tutto questo. E dopo qualche minuto decise che era meglio stare fuori che dentro. Che era meglio dare un'occhiata al lago. E se ne uscì dalla macchina. Così, senza che agitassi le mani o cercassi di ammazzarla. E sembrava le piacesse. Iniziò a volare velocemente sulla spiaggetta, giocando a tuffarsi in acqua per poi deviare di colpo, evitando l'impatto. Giocò a zigzagare fra i rami degli alberi e a disegnare cerchi nell'acqua. Io la guardavo stupefatto. Umberto D'Attola, ho 41 anni, abito a Ome, in Franciacorta, in provincia di Brescia. E il mio lavoro è disegnare e costruire mobili, che alcuni chiamano di design, e sono sposato con un figlio. Le mosche sono un animale perfetto, intelligente e perfetto, è il migliore animale del mondo. Sappi, lo dicono gli scienziati che è perfetta la mosca. È perfetta in tutto la mosca, nel mangiare, nel pisciare, nel cagare, nella riproduzione, nella respirazione, per esempio. Guarda che la respirazione della mosca è una cosa perfetta. Infatti, si è mai vista una mosca che non respira? Dice, guarda una mosca con l'asma, non ci stanno. Si è mai vista? Che non respira, fai la respirazione bocca a bocca alla mosca, capisci? La mosca guarda che è perfetta in tutto. Perché alla fin fine le giornate non sono tutte uguali tra loro, no? Cioè la vita non è tutta uguale, non è che succedono sempre esattamente le stesse cose. Ed è per questo che questo programma che racconta delle piccole storie si trova a raccontare delle storie che sono state scritte da voi, che raccontano cose che la prima volta che le vedi dici, vabbè, ma la mosca. E invece no, invece non è così. Lo dice anche Ascanio Celestini in quel pezzo che abbiamo mandato, che è tratto da Scemo di guerra e in cui parla proprio di una mosca. Va molto più a fondo sul discorso sulla mosca, perché l'idea è che la mosca è un animale pacifista e racconta questa cosa che le mosche è un animale intelligente perché ha un sacco di narici, respira da tutte le altre parti. E poi per un altro motivo, magari poi lo sentiamo dopo anche per quale motivo secondo Ascanio Celestini le mosche sono animali perfetti, ma anche secondo Umberto D'Attola le mosche non sono probabilmente perfetti, ma possono essere nostalgiche. Umberto ha mandato questo racconto, credo che ancora fosse quest'estate, o forse eravamo ancora in onda con Io sono qui, o comunque è arrivato quest'estate, l'abbiamo letto comunque a giugno-luglio. E quando ho visto questo titolo, perché aveva proprio il titolo, era La mosca nostalgica, mi sono domandato, primo come sarebbe potuto essere un racconto che si intitola La mosca nostalgica, e poi volevo capire esattamente di cosa si trattava. È una cosa, e adesso ve lo racconterò, talmente leggera, talmente delicata e talmente garbata che ha senso parlare del motivo per cui anche una mosca può stare in una piccola cornice delle nostre giornate e della nostra vita. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it, se volete scrivere anche in diretta. Che cosa pensano gli animali? Questa è un po' l'idea che mi è venuta quando ho letto la prima volta il racconto di Umberto, che è una cosa che ci si chiede soprattutto quando si hanno degli animali, no? Quando si hanno dei cani, dei gatti, dei cavalli. La domanda è, avranno un pensiero che gli passa per la testa o forse no? Secondo Umberto la mosca sì. Anche secondo Elisabetta, però, che mi scrive sul profilo Facebook del programma, nella fase di addestramento dei suoi 5 cuccioli, la mia gatta una mattina li portò per la prima volta ad arrampicarsi su un albero. Non troppo alto, ma per loro sì. Tra i 5 ce n'era una in particolare. Imbranata, salì ma non volle sapere di scendere, è un classico. La gatta spingeva con il muso, miagolava, soffiava, ma questa niente. Gli altri invece erano scesi e lei non aveva tempo da perdere con l'imbranata. Quindi mi ha guardato, mi ha fissata e io ho percepito questo messaggio. Senti, pensaci tu a questa, io devo andare con gli altri. Poi scese, controllò quello che stavo facendo e quando mi vide che stavo salendo sull'albero a prenderla, mi guardò con un miau di ringraziamento e se ne andò. 349-238-6666. E secondo Francesca invece gli animali pensano, cosa c'è da mangiare? Che non è male. E poi c'è chi, ecco, e poi c'è chi apre dei profili Facebook per i propri gatti e i propri cani. Questa è una cosa che sta veramente a metà tra la simpatia e la malinconia più infinita. Però Giuseppe mi ha scritto: il mio cane ogni tanto parla su Facebook e ha messo il profilo Facebook del proprio cane, che ha anche dei like. Credo sia una fanpage, quindi, giusto? Diciamo, se metti il like è una fanpage, non è un profilo privato. E poi ecco qua, racconto che mi ha inviato Giulietta. Giulietta è un'ascoltatrice di Montevideo, uruguayana che in realtà ascolta i programmi nostri da diversi anni e ci ha seguito in maniera molto affezionata attraverso i podcast, anche perché in questo momento a Montevideo saranno le 10 del mattino, sono le 4, saranno le 10 del mattino. Vabbè, insomma, chi se ne frega. Giulietta mi ha scritto questo messaggio. Lei chiaramente parla spagnolo, però conosce l'italiano. Mio nonno Gualberto aveva altro che un cane, un figlio, si chiamava Negro, tra parentesi nero, che in spagnolo significa nero. Io lo portava in tutti i posti, sempre sulla sua macchina, che era una Fusca, cioè un maggiolino rosso. Era sempre sporca, piena di capelli, c'era un odore fetido e insopportabile. Quando qualcuno entrava in macchina e si lamentava dell'igiene, lui, alla persona sull'auto, non diceva niente. Guardava il cane e gli diceva: Negrito, vieni qua davanti con me, non ti sporcare con questa gente. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Oggi si parla di mosche, si parla di che cosa pensano le mosche e se ne parla così. In un luogo umido e caldo entrò in auto una mosca. Sulle prime non ci feci caso, ma quando iniziò ad infastidirmi alla guida cercai in ogni modo di farla fuori, che poi voleva semplicemente dire muovere le mani molto velocemente e sperare di stordirla. Perché schiacciare una mosca è una cosa abbastanza schifosa, che speravo di non fare, sono mica Obama. Una zanzara sì, è un conto, non te ne accorgi quasi. La mosca però è grossa, ha un sacco di organi e quando si rompono insomma non è molto piacevole. E poi mi hanno anche detto che ha 1000 occhi. E schiacciare tutti quegli occhi non mi pareva carino. Però dovevo pur riuscire a guardare la strada senza un insetto che mi desse fastidio. Comunque non riuscii ad allontanarla, non riuscii neanche a placarla. Qualsiasi cosa sperassi che potesse succedere, la distrazione iniziava veramente a far diventare la mia guida pericolosa. Allora decisi di fermare l'auto e provare a farla uscire gentilmente, sta mosca. Ero ormai giunto sul lago e fermai la macchina vicino a una riva. Ero in giro per lavoro e mi sono fermato con la macchina sul lago di Iseo. Avevo già abbozzato un'idea per la costruzione di un mobile, però non era un'idea definita e di solito quando bisogna completare c'è bisogno di rilassarsi un attimo, fermarsi. Cominciai ad agitare le mani come un matto o come un pugile, che poi i pugili sono un po' matti perché prendersi a cazzotti in faccia e poi stringersi la mano è una roba che io sinceramente non ho mai capito. Ma insomma, stavo lì a mani aperte, mezzo dentro e mezzo fuori dalla macchina, sperando di convincere sta mosca a uscire e sperando che nessuno mi vedesse combattere con dei fantasmi. Provavo anche a parlarle. Le dicevo di uscire per piacere, che era meglio per lei, che c'erano un sacco di cose interessanti su cui posarsi di fuori, che in macchina mi dava fastidio. E poi ho fatto appello a tutto il suo senso di autoconservazione, dicendole che se facevamo un incidente ci avrebbe rimesso anche lei. Insomma, in pratica stavo parlando a una mosca e mi agitavo come un epilettico. Non c'era nessun effetto. Niente, non usciva, e quindi mi fermai. Stavo in piedi di fianco alla portiera aperta, mi asciugavo il sudore. Era una giornata meravigliosa. Un sole caldo e l'aria tersa per le piogge notturne. L'aria era leggera, pulita, e allora pensai che forse poteva essere una bella occasione per godersi un po' di serenità, una bella giornata, un po' di pace. Anche la mosca sembrò sensibile a tutto questo, e dopo qualche minuto decise che era meglio stare fuori che dentro, che era meglio dare un'occhiata al lago, e uscì dalla macchina. Così, senza che agitassi le mani o cercassi di ammazzarla, e sembrava che anche le piacesse. Iniziò a volare velocemente sulla spiaggetta, giocando a tuffarsi in acqua per poi deviare di colpo, evitando l'impatto. Giocò a zigzagare fra i rami degli alberi e a disegnare cerchi nell'aria. E io la guardavo stupefatto. Ho avuto cani e adesso ho una splendida gatta. Però ecco, non sono un amante sfegatato degli animali. Mi piacciono, ecco. Io tirai fuori una bottiglietta d'acqua, mi sedetti sul cofano tiepido a guardarmi in giro. Dopo circa una quindicina di minuti la mosca sembrò rallentare e poco dopo si fermò, rivolta verso il lago. Se ne stava sul tettuccio della macchina e io ero lì a guardarla, quasi sperando che succedesse qualcosa, che se ne andasse ad esempio. Invece niente, quella rimaneva. E mi sembrava addirittura che avesse un comportamento, cioè che avesse un'espressione, quasi come se potesse avere un'emozione. E la cosa che vedevo era tristezza. Sembrava di colpo essere stata assalita da malinconia. Mi chiesi per cosa poteva essere malinconica una mosca. Per i suoi luoghi, per gli amici, per i familiari. Che poi, chissà se una mosca ha dei familiari. Iniziò un volo lento e indeciso, poi si riposò sul cofano accanto a me. Quando aprì lo sportello del lato del passeggero, lei rientrò in auto. E io non ci potevo fare niente, la capivo. E allora la riaccompagnai nel luogo in cui era salita. Durante il tragitto se ne stette tutto il tempo buona, senza disturbare. E secondo me stava pure seduta. So we sit and let's occur and take him. A gentle breeze will leave his pants in disarray. And at his ankles lay. As he drifts to sleep with a moan and a weep. He is decked by a Japanese geisha with a garland of pearls. Twist and twirl. Io amo mangiare la carne, mi piace in particolar modo il bollito. Però mangio un po' di tutto, mangio pollo, mangio manzo alla brace, brasato, carpaccio, mangio il goulash, le salsicce, ah, la tartare pure, le scaloppine, poi tutti gli affettati, prosciutto crudo, cotto, salame, bresaola, carne salata, praticamente tutto. E così no, magari evito le frattaglie, i nervetti, le cervella, quelle robe lì che saranno buonissime, però mi fanno impressione, è proprio la consistenza, sì, come per i bambini, che ti fa schifo tenerle in bocca. Però alcuni amici che proprio la carne la evitano. Gianni, ad esempio, che è vegetariano, lui dice però, è vegetariano però i pesci li mangia. Allora un giorno gli ho chiesto se avesse visto per caso Nemo, il film, e lui mi ha detto di sì, che l'aveva visto, e che i pesci però invece non provano emozioni o dolore, e quindi si potevano mangiare. Ho sempre avuto un sacco di discussioni con persone vegetariane, con vegani, crudisti, e sono sempre rimasto convinto per metà delle mie idee e per l'altra metà delle idee che mi venivano contrapposte. Insomma, non sono proprio un assolutista. Ci sono quelli che non mangiano la carne animale perché siamo animali anche noi e sarebbe quasi cannibalismo. Poi ci sono quelli che mangiano solo pesci perché in fondo loro non contano, come il mio amico Gianni. E poi ci sono quelli che la carne la evitano completamente, quella rossa, però soprattutto per ragioni di salute. Ho scoperto tra i vegetariani famosi ci sono Jovanotti, c'è Umberto Veronesi, c'è Paul McCartney, Paris Hilton, Carl Lewis, Jim Carrey anche, e Jeremy Rifkin, ognuno però per motivi diversi. E poi ci sono quelli più duri, più puri, i vegani, quelli che non mangiano niente che sia di origine animale. Ho scoperto che Bill Clinton è vegano, ma soprattutto ho scoperto che Natalie Portman è vegana. E questo mi ha fatto un po' riflettere. Forse perché volevo offrire una bella bistecca quando fossimo usciti a cena. E invece niente. Però magari diventando vegano ho pensato che avrei potuto frequentare i posti che frequentava lei. Beh, certo non a Milano e non alla Bovisa. I vegani non usano nessun prodotto animale, neanche per l'abbigliamento. Non mangiano latticini, uova. Insomma, non si sentono in diritto di sfruttare in nessun modo gli altri animali per il proprio benessere. È una maniera di vedere il mondo. In effetti, dopo aver letto certi libri, tipo Se niente importa di Jonathan Safran Foer, ho avuto anche io qualche dubbio. Chiaramente soprattutto sulla questione legata all'allevamento intensivo, sul maltrattamento delle bestie. Per qualche mese sono rimasto in dubbio se smettere di alimentarmi con la carne e passare decisamente ai fagioli. Solo che col passare del tempo e vedendo l'effetto dei fagioli sull'intestino, la mia anima carnivora si è cercata delle scuse e quindi mi sono rimesso a mangiare animali derivati, però con un compromesso. Cioè, che le uova devono essere allevate a terra, la carne deve essere selvaggina, il latte, i formaggi, solo biologici. Insomma, mi sono creato una nicchia in cui sto abbastanza bene, pure con la mia coscienza. Però di recente ho avuto una conversazione con una ragazza buddista. Lei mi ha detto che noi non abbiamo diritto di decidere della vita e della morte di nessun essere vivente. Nemmeno delle mosche. Nemmeno delle zanzare. E io lì, purtroppo, non ci arrivo. Perché va bene tutto. Ma i sentimenti delle mosche, no. He said you never moved, you never danced. Never wrote a melody into chants. Never sang one song true enough to call the birds back to the loft. You never moved, you never danced. La mosca, guarda che è perfetta in tutto. Ma soprattutto nel mangiare. Nel mangiare la mosca è l'animale più perfetto del mondo. Sai perché? Perché le mosche mangiano merda. Merda e cadaveri. E merda e cadaveri non mancano mai. Se mai sentito sono morte le mosche fino a merda. Se mai sentito? Si dice muoiono come mosche, ma si dice per invidia. Se una schiacciatina mosca non muore di suo, capito? Campa 100 anni. Ah no? Sono arrivati, come vi ho detto, centinaia di racconti, degli argomenti più disparati ovviamente, molti però hanno riferimenti simili, riguardano, che so, riguardano l'infanzia, riguardano storie d'amore, riguardano storie di lavoro, storie di famiglia anche, ci sono moltissimi che gravitano intorno a questi argomenti. Io mi sono però innamorato di questo racconto che si intitolava La mosca nostalgica, perché ci vuole un po', secondo me, di follia per decidere di mandare un racconto che riguardi un episodio della tua vita che ha a che fare con una mosca, per lo più nostalgica. Pronto, Umberto? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Io bene, tu? Bene, bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento sono nel mio laboratorio a Ome, a Brescia. Mi ricordi cosa fai, per piacere? Allora, io sono un falegname, e accanto a questo disegno e costruisco mobili sia per un catalogo mio che per altre aziende. Quindi fai tutto tu? Cioè fai tipo roba di design? No? Cioè hai, hai una persona che disegna per... Alcuni lo chiamano così, design, sì. E altri invece come lo chiamano? No, a me, io sono innamorato della materia, del legno e di altre materie, perciò le cose che mi vengono in mente poi in realtà cerco di costruirle, cerco di fare cose belle. Che cosa stai facendo in questo momento? Cos'hai sotto le mani sul banco? Allora, ho uno dei miei tavoli che si chiama I'm a Woodworker, sono un falegname, sì. E lo sto costruendo. Cioè, quindi stai costruendo un tavolo da lavoro? No, è un tavolo da pranzo, per una sala da pranzo. Ma senti, hai un sito o qualcosa che lo diamo, certo, così? Qual è? Certo. Si chiama Club con la A, CLAB 4design.it. Club4design.it, club con la A. Benissimo, abbiamo fatto anche la soletta, adesso veniamo alla mosca nostalgica, Umberto, sì. Perché come ti viene? Come viene a un uomo normale, mi sembra di sentire dalla tua voce, che fa un lavoro artigiano, un lavoro antichissimo, oserei dire, di raccontare come episodio della sua vita un incontro con una mosca? Ma non lo sai neanche tu, a dire la verità, sembra. Non lo so neanch'io, no. In realtà, vabbè, la storia è venuta da sé, dalla necessità di creare un piccolo legame fra quello che stavo costruendo in quel momento, che era la panca che poi prenderà il nome Homesick Fly e Mosca Nostalgica, e una piccola storia da accompagnare. Senti, quindi questa storia poi, come dire, la attaccherai a quella panca? Oppure... È già attaccata a quella panca. Ah, è già, sì, attaccata a quella panca. Ogni mia creazione in realtà viene accompagnata da un piccolo racconto che descrive il momento in cui mi è venuta l'idea per quel mobile. Fammi un altro esempio, scusami, di un altro mobile con una piccola storia. C'è una borsetta in legno che si chiama G-Wedding, il matrimonio di Gianluca. Che descrive la storia di come noi amici avevamo preparato una busta in legno con dentro dei soldi, appunto, per il suo matrimonio, e poi guardando come la ragazza, la futura moglie, portava questa borsetta, in realtà questa busta, mi è venuta l'idea della borsetta. Ma senti, quindi correggimi se sbaglio, tu prendi dei piccoli pezzi della tua vita, giusto? Più o meno accaduti, e li attacchi a degli oggetti che tu stesso costruisci. Già, giusto. Ma questa è una cosa innovativa, cioè esiste nel mondo della falegnameria o del design? O... Non te lo so dire. Che studi hai fatto tu, Umberto? Il mio metodo. Che studi hai fatto? È una storia lunga, io ho fatto economia e commercio. Ma l'hai finita? Sì. E com'è che hai deciso di fare il falegname? Quando mi sono chiesto cosa mi sarebbe piaciuto fare da grande. Umberto, senti, ti ringrazio ancora tantissimo per la storia e per la tua telefonata. Grazie a te. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Umberto siamo insieme a lui in quello che credo sia il suo laboratorio di falegnameria, perché ci sono mobili di quello che lui ha detto, alcuni chiamano design, in giro, e ci sono però quattro persone, tre sono sulla destra, stanno scattando delle fotografie, e ci sono macchinari fotografici in giro. Quello che fotografano però è lui, credo che sia lui, insieme a tre sgabelli, direi, o comunque tre delle sue creazioni, anzi quattro delle sue creazioni. Umberto è magro, è un po' stempiato, ha su una magliettina scura e dei pantaloni neri, credo, molto aderenti, e sta saltando. Credo, ripeto, che sia proprio nel suo laboratorio, che ha detto essere nella Franciacorta, mi pare, in provincia di Brescia. Andate a vedere la foto, è sul sito radio24.it, alla pagina Voi siete qui. Invece il profilo Facebook è Matteo Caccia, Io sono qui. Cliccate su mi piace e vedete tutto quello di cui parliamo e tutto quello che vi raccontiamo ogni giorno, compresi Tiziano spesso carica i brani che mettiamo in onda. 349 238 6666. Andrea da Trento, a proposito di animali, che cosa pensano gli animali, mi scrive: ciao, sono un addestratore di cani. 12 anni fa un cane, dopo avermi guardato per qualche minuto caricare la legna in auto, cominciò ad aiutarmi. Non capisco esattamente come faccia un cane ad aiutarti a caricare la legna, però io ci credo. E poi qualcuno scrive: mi sa che lo zio della mosca si è dilaniato di acidi. Allora, per chi non lo sapesse, lo zio... Ma è solo milanese dire zio? Oh, zio? No, non è solo milanese. Cioè, ma cosa vuol dire? Zio è un... non si capisce. Amico, tizio, poi sì, però un po' lombardo. A Senigallia non si dice: oh zio, cosa ti sei preso? 349-238-6666. Qualcuno dice: io ho anche trovato una formica che si era persa nel bagno. È chiaro che a questo punto la sottile linea tra che cosa pensano gli animali e che cosa gli facciamo pensare noi è davvero abbastanza complicata da individuare. Quest'estate ho letto un libro magnifico che parla di animali. È un libro scritto da quest'autore che si chiama Gerald, perché è inglese, Durrell, che è l'autore, forse qualcuno di voi l'avrà sentito per un altro libro, che era La mia famiglia ed altri animali. È diventato famoso per quello. Questo invece si chiama L'isola degli animali, e la storia è semplicissima. È la storia di un ragazzino di 13-15 anni che vive a Corfù, nell'isola greca di Corfù, che poi è la sua storia, la storia di Gerald Durrell, che da giovanissimo, insieme alla famiglia inglese, si era trasferito a vivere a Corfù poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ci rimase con tutta la famiglia ed, essendo un amante degli animali, divenne uno zoologo molto famoso, creò un centro su un'isola inglese, molti anni dopo divenne il presidente e il direttore di questo centro. Scrisse libri anche di zoologia, mi pare, e tra gli altri scrisse invece questi libri, cioè La mia famiglia e altri animali, e questo che si chiama L'isola degli animali. In questo piccolo pezzo, lui è piccolo, è il giorno del suo compleanno e tutta la sua famiglia gli fa questo regalo. Il mattino seguente mi svegliai e restai sdraiato per un attimo, chiedendomi che cosa avesse di tanto speciale la nuova giornata. E poi me lo ricordai. Era il giorno del mio compleanno. Stavo proprio per alzarmi dal letto, curioso dei miei regali, quando dall'ingresso giunse un curioso trambusto. Mi sedetti, volevo andare anch'io per vedere cosa succedeva, quando la porta si spalancò. E un asinello, addobbato con dei festoni di carta crespa colorata, decorazioni natalizie e tre enormi piume attaccate abilmente tra le grosse orecchie, entrò al galoppo in camera da letto. L'asinello, pattinando, si fermò accanto al mio letto e mi guardò con gli enormi occhioni marroni. Sembrava piuttosto sorpreso. Si scrollò così energicamente che le penne fra le orecchie saltarono via. Poi, con grande destrezza, allungò la zampa posteriore e assestò un bel calcio a mio fratello. L'asinello, avvicinandosi al bordo del letto, mi aveva fissato incuriosito per un attimo, poi aveva emesso un piccolo verso gutturale di gioia e mi aveva ficcato nelle mani che gli avevo teso un muso grigio, morbido e liscio come le cose più lisce che conoscevo. Era di un bel marrone scuro, quasi color prugna. Aveva le orecchie enormi, come due calle, e una specie di calzini di pelo bianco sopra i minuscoli zoccoli. Lungo tutta la schiena le correva la gran croce nera che ricordava come fu un rappresentante di questa razza a portare Cristo a Gerusalemme. Aveva l'aria di un fuggiasco del circo e masticava con aria meditabonda un pezzo di carta crespa, mentre io saltavo giù dal letto e mi buttavo su di lui. I'm not scared of homes when they're not deep. What is wrong with me? Why do you remain silent like you're weeping willow? And the love raised inside of my heart, there's a place where you can go. Tutti e e tre i brani che sentite ogni giorno a Voi Siete Qui li trovate, se vi interessano i titoli e autore, alla pagina Voi Siete Qui del sito di Radio 24, radio24.it. 349-238-6666, è stato svelato l'arcano, quella del cane che aiutava a caricare la legna. Gaetano De Vicenza dice: probabilmente prendeva la legna con la bocca e la caricava in auto. Marcello dice: io ho due bulldog, quando taglio l'erba in giardino mi aiutano strappando ciuffi d'erba, ma solo se lo sto facendo anch'io. E poi non so chi mi scrive: il grande poeta spagnolo Antonio Machado, morto nel 1939, scrisse una bellissima poesia dedicata alle mosche. Cercatela se potete. Noi potevamo e grazie a Viola Bottone l'abbiamo trovata. È una poesia, è un piccolo poema abbastanza lungo che finisce così: mosche comuni, cui l'essere domestiche non vi darà degno cantore, io so che vi siete posate sul ginocchio fatato, sul chiuso librone, sulla lettera d'amore, sulle palpebre tese dei morti. Inevitabili e golose, che né operate come api, né brillate quali farfalle. Piccoline, turbolente, voi, vecchie amiche, mi evocate ogni cosa. Questo era Antonio Machado, grazie a chiunque sia, visto che non si è firmato, che ci ha segnalato questa piccola poesia. E poi ancora, ciao Matteo, io sono un allevatore. Quando entro nel box delle vacche, ce n'è una che arriva, si fa fare due carezze e poi va via. Io sono qui. Grazie a voi. Io vorrei ringraziare anche, vorrei approfittare, già che ci sono e alla fine si fanno tutti i ringraziamenti, vorrei approfittare per ringraziare Elisa, che è un'ascoltatrice e che mi ha regalato una piccola tovaglietta che ha preso non so dove esattamente. Sapete quelle tovagliette strette e lunghe che si mettono a cavallo del tavolo? Hanno un nome quelle tovagliette? Non sono le tovagliette americane. Strette e lunghe, facciamo che si chiamano strette e lunghe. Una tovaglietta bianca con un cerchio rosso e due scritte: Voi Siete Qui. L'ho caricata sul profilo Facebook se avete voglia di vederla. Grazie a lei e grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma ogni giorno: Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Viola Bottoni e anche Margherita Ina, che è dei nostri recentemente. C'è la possibilità di risentire questo programma in podcast, ve lo dico sempre. C'è la possibilità di farlo sia sul sito di Radio 24, c'è una sezione apposta dedicata ai podcast che si chiama podcast, e poi invece c'è un altro modo che è andando su iTunes. Forse oggi più che mai è giusto ricordarlo, che qualcuno ha creato un mondo che si chiama Apple, all'interno del quale tra le varie categorie c'è una roba che si chiama iTunes, dove potete caricarvi la vostra musica, vabbè lo saprete, e in quella parte lì ci si può semplicemente abbonare gratuitamente ai podcast di tutti i programmi che volete, ma in particolar modo di Voi Siete Qui. E la cosa comoda è semplicemente che ve lo scarica automaticamente, basta che lo apriate e ve lo aggiorna ogni giorno allo stesso modo. E poi al volo, prima di chiudere, Giovanni, ti potrebbe interessare il fatto che Ray Cooder ha pubblicato un bellissimo disco che si chiama My Name is Buddy, le cui canzoni sono raccontate dal punto di vista di alcuni cani. E qui Bonini però non ce l'ha trovato Ray Cooder, tra l'altro il disco è molto bello, ma sono parziale perché penso che Ray Cooder sia uno dei più grandi artisti e chitarristi viventi. Grazie a tutti, questa di oggi era la storia di Umberto e parlava di mosche con la nostalgia. Quella di domani invece è la storia di Rossella e racconta della vita da camerieri. La gioia di vivere in un luogo dove la vita è organizzata bene e il senso di tutto che gira al giusto ritmo è impagabile. E poi avevo la coscienza in pace. Vedevo il frutto delle mie fatiche quando tutto era pulito e a posto, il lavoro concluso e tutto andava bene. E poi quando pensi che sia finita la fatica, si ricomincia tutto da capo. Si ritira fuori tutto con gli stessi gesti e lo stesso ordine. È come una specie di esercizio spirituale, una meditazione, un movimento ritmico, un cerchio che si chiude ogni volta uguale a se stesso, pieno di certezze e di senso della ciclicità delle cose.